Blu Radio Veneto. Dai colore alle tue frequenze. I giorni della Chiesa. Eventi e incontri della Diocesi di Padova. Ben ritrovati da Mirko Cavallin in studio e di Daici in regia, il nostro spazio di ascolto, riascolto, riproposta di alcuni eventi, incontri, convegni che si sono svolti nel corso di quest'anno pastorale in città e in diocesi di Padova. Prosegue lo spazio dedicato ai 500 anni della Riforma Luterana in collaborazione con il Centro Universitario di Via Zabarella, che ringraziamo, e troviamo ancora una volta la voce di una donna, della presenza femminile nella Bibbia. Si è già parlato anche in altri incontri. La settimana scorsa abbiamo sentito la voce di Gabriella Caramore, giornalista, sul tema della riforma e della parola di Dio, e questa sera invece ascoltiamo Lidia Maggi sulla riforma e il ruolo della donna. Buon ascolto. I giorni della Chiesa. Dalla scrittura. Il destino delle donne è molto simile al destino delle scritture. Voglio dire che da una parte noi abbiamo quella che è la voce di Dio, la parola di Dio racchiusa in un libro, una parola certo plurale, certo parziale sotto molti aspetti, perché, come dice il Talmud, quando Dio parla usa il linguaggio umano è necessariamente parziale. Se ci pensate bene, anche voi, per dire la realtà partite da una lingua madre, non partite da tutte le lingue, partite da un contesto particolare, partite da il vostro sguardo in Occidente, a Padova, il vostro sguardo di genere, essere donne o essere uomini è un po' diverso nel modo di dire la vita. Ecco, quando Dio parla, il linguaggio umano, il Talmud dice, Dio parla un linguaggio parziale, ma è necessaria questa parzialità per fare esperienza del divino. E la scrittura è questo testo, questa parola di Dio, dove udiamo la voce di Dio plurale, in un contesto parziale, che è giunta fino a noi e ci parla e ci libera dalla terra di esilio per mostrarci un modo diverso di vivere nella libertà. Allora, questa parola che è così importante, così fondativa, riscoperta dalla Riforma, riscoperta dal Vaticano II, in realtà è stata una parola esiliata. È stata una parola che da una parte è stata riconosciuta come parola fondante, come lingua materna della fede, ma dall'altra parte è una parola con cui abbiamo delle resistenze, delle difficoltà. È una parola che vorremmo conoscere, ma fatichiamo ad afferrare, ci sfugge e ci dà pure un po' fastidio quella complessità che ci viene presentata. Entriamo nella scrittura e spesso ci entriamo male, facendone un codice normativo, facendone un luogo dove vogliamo dire la fede attraverso il definire. Invece la parola di Dio si presenta come un luogo dove per dire Dio, da una parte facciamo i conti con un divieto che è tipico della tradizione biblica, il volto di Dio tu non puoi vedere, pure ricerchiamo il suo volto, e dall'altra parte ancora il nome di Dio tu non puoi pronunciare, e sarebbe quasi il caso di dire ci potremmo trovare di fronte a un'impossibilità di ogni parlare su Dio. Ma invece la scrittura ha una strategia importante per evitare che il nome di Dio venga afferrato, il volto di Dio venga svelato, ed è quello di moltiplicare le narrazioni su Dio, per impedire che Dio sia quella granitica certezza, quell'idolo che rischia poi di non avere voce né essere capace di udire. Tutte le volte che Dio viene definito in maniera molto precisa, Dio diventa un idolo, e tutta la scrittura intesse una lunga lotta contro l'idolatria, proprio contro questo tentativo di afferrare Dio, di semplificarlo. Quello che sto provando a dirvi con questa lunga introduzione è che la scrittura, questo testo normativo della fede, questo testo che ci insegna la grammatica della fede, questo testo che ci restituisce la complessità della fede, la complessità della vita umana e soprattutto la complessità di ogni narrazione su Dio, moltiplicando le narrazioni, è un testo che noi affermiamo essere importante, normativo, eppure è un testo sconosciuto, esiliato, vive ancora in terra di esilio. Ecco, io credo che lo stesso destino sia accaduto alle donne nella fede ebraico-cristiana e nello specifico nella Chiesa. Le donne sono riconosciute come presenti, sono riconosciute come importanti, sono riconosciute come necessarie e tuttavia sono silenti e tuttavia è come se fossero ancora in terra di esilio. Ecco, il recuperare la memoria delle donne nella Chiesa va di pari passo con recuperare la centralità della parola di Dio. E qual è il problema? Scusate le generalizzazioni, ma forse ci permettono di capire attraverso queste parabole qualcosa di quello che stiamo vivendo. Qual è il problema? È che in realtà noi non riusciamo a fare i conti con l'alterità. Il problema è proprio qui, è l'alterità. Il corpo delle donne, il pensiero delle donne e la presenza delle donne nella Chiesa sono la memoria storica e la memoria concreta di questa alterità che ci disturba e che tuttavia è parte del codice genetico della fede. E allora entro nel tema della Riforma proprio ricordando che il primo contributo che la Riforma ha dato alla Chiesa è stato quello di recuperare questo rapporto con l'alterità e recuperarlo non perché Dio sia quella presenza tremenda e paurosa che non comprendiamo, ma piuttosto per dire con le parole del profeta: i miei pensieri non sono i vostri pensieri, le mie vie non sono le vostre vie. Cosa sto provando a dire? Sto provando a dire che dietro la questione della presenza delle donne si gioca un problema teologico serio, che è proprio il rapporto con l'alterità. È proprio quel rapporto che ci porta a fare i conti con una parola che è vicina, come sono vicine le donne nelle nostre chiese, ma nello stesso tempo non ci appartiene, è lontana, è vicina ma non ce ne possiamo impadronire, è vicina ma è complessa. Possiamo lasciarci ospitare da questa parola, ma non possiamo possederla. E un parallelo simile avviene nel rapporto con le donne. Allora, il primo contributo a recuperare questa alterità, sdoganarla, dichiararla come parte del codice genetico della fede cristiana, ci può portare a riconsiderare quel tu diverso dal genere maschile o dal genere neutro che abita nelle chiese, che è presente ma che abbiamo addomesticato perché l'alterità ci dà fastidio, l'alterità ci inquieta, abbiamo un rapporto strano con l'alterità, ancor di più in questa società. Da una parte noi siamo una società globalizzata, plurale, ma dall'altra parte forse proprio in tempi di postmodernità, di pensiero liquido, dove non si coglie dove stiamo andando e chi siamo, si tende a voler avere pensieri chiari e distinti, si tende a voler definire la realtà, si tende a volerla afferrare. E allora ci troviamo scomodi quando entriamo nelle scritture e scopriamo che le scritture sono anche un mare, acque su cui camminare, acque che possono essere instabili e inquietanti. Voglio dire che tutti noi tendiamo a addomesticare le grandi domande della fede, a renderle semplici, e non ci rendiamo conto che in questa semplificazione spesso si nasconde una banalizzazione. La semplificazione che arriva soltanto dopo aver fatto i conti all'alterità è un'altra cosa. La vita umana è complessa, l'esperienza di fede è complessa, la Bibbia ci restituisce questa complessità ricordandoci l'alterità di Dio, ricordandoci che per dire Dio bisogna usare tanti linguaggi, anche l'esperienza umana nella sua pluralità, maschio e femmine, è un'esperienza complessa e con questa complessità noi fatichiamo a fare i conti. Per cui abbiamo costruito un neutro, che è sempre maschile, con cui diciamo la realtà, diciamo Dio, diciamo le immagini di Dio, diciamo la fede. Dietro questo neutro non si nasconde soltanto una visione patriarcale che non fa giustizia alla pluralità di linguaggi che la scrittura usa per testimoniare la fede attraverso uomini e donne, perché il Dio biblico si presenta come il Dio d'Abramo ma anche il Dio di Sara, anzi il Dio che sceglie proprio Sara per trasmettere la sua elezione attraverso il figlio che Sara partorirà, il Dio che sceglie il corpo di una donna, Maria, per incarnarsi e farsi vicino e mostrarsi pienamente umano e attraverso questa pienezza di umanità rivelare il volto di Dio. Nel momento in cui noi cogliamo questa pienezza di umanità, noi riusciamo a capire qualcosa di questo mistero di Dio e scopriamo che questa alterità è anche un tu vicino che ci interroga, che ci interpella, che abbiamo conosciuto nelle vie della Galilea attraverso questo poeta itinerante che è Gesù di Nazareth. Allora io credo che le donne nella Chiesa sono la memoria di questa alterità che spesso viene dimenticata, perché è faticosa ad abitare l'alterità, ancor di più in questo contesto storico dove sembra che niente tiene, abbiamo bisogno di poche facili certezze, abbiamo bisogno di googlare la realtà, di definirla, e invece la scrittura ci porta in un'altra direzione, ci porta in una direzione dove se volete comprendere qualcosa di Dio dovete mettervi in un cammino, in un processo. Allora, la riforma ha recuperato questa alterità proprio nel mostrarci un Dio altro, un Dio diverso da come da come veniva vissuto nel Medioevo, un Dio che era stato così rigidamente definito attraverso categorie economiche da aver perso il volto umano, da aver perso quel tratto di misericordia che è stato riscoperto con la Riforma. Se ci pensate bene, nel momento in cui la Riforma ha riproposto il Dio che ci salva per grazia, ci ha presentato un Dio altro rispetto a come veniva immaginato Dio, un Dio che bisognava soddisfare, una salvezza che bisognava conquistarsi attraverso le opere. Ci ha mostrato un Dio altro, ma nel mostrarci un Dio altro ci ha anche rivelato un Dio che è per l'umanità e non è contro l'umanità. Questo per dirvi che a volte restituire l'alterità non significa mettere la distanza e basta, significa permetterci di vedere lati, aspetti, punti di vista che non potevamo vedere perché guardavamo le cose da quel punto di vista parziale che abbiamo assolutizzato come punto di vista totale e non ci siamo resi conto che invece c'era una parzialità. Ecco, la Riforma ha dato questo primo contributo, ci ha richiamato all'alterità di Dio, ma ci ha richiamato all'alterità di Dio decostruendo un immaginario su Dio e consegnandoci un immaginario di misericordia, un immaginario che ha anche decostruito però il nostro modo di relazionare con Dio, perché ci ha tolto ogni presunzione e ogni fatica d'altra parte di doverci guadagnare con le nostre azioni, col nostro vivere, con le nostre convinzioni dottrinali, la salvezza. La scrittura ci ha riconsegnato questa alterità che ci ha la riforma ci ha riconsegnato questa alterità, che ci ha reso anche consapevoli di un'alterità che abita tra di noi e che non vedevamo, che è l'alterità uomo-donna, e non un'alterità come noi la pensavamo attraverso definizioni di ruoli sociali. E qui le cose si fanno complesse. Voglio dire, Dio parla, quando parla il linguaggio, quando parla agli esseri umani, parla il linguaggio umano, che è un linguaggio parziale, un linguaggio contestuale. Allora noi entriamo in questo libro che è Parola di Dio e chiaramente incontriamo il patriarcato. Perché se Dio parla un linguaggio parziale, parla un linguaggio all'interno di una società che è patriarcale. È patriarcale. Noi entriamo nelle scritture e troviamo diverse realtà patriarcali, non sono tutti uguali, ma un elemento comune che identifichiamo è il fatto che, ma guardate, i nostri antenati nella fede sono patriarchi. Certo che diciamo che ci sono anche le matriarche, però coloro che ci hanno trasmesso la fede, colui che sta, nostro padre nella fede Abramo, colui che ha creduto nella promessa, è un patriarca, vive all'interno di una struttura patriarcale, diversa da altre strutture patriarcali, perché lui è nomade. I rapporti sociali all'interno del patriarcato sono chiaramente rapporti dispari, perché il patriarca, il capo del clan, e la moglie, le mogli in questo caso, Abramo avrà anche una concubina, Agar, la schiava, vivono in una condizione di sottomissione. Certo che all'interno di questa sottomissione si esercitano spazi di protagonismo femminile, ma tutti all'interno di una struttura patriarcale. Quello che sto dicendo è, se Dio parla all'interno di un linguaggio umano ed entra in una storia umana segnata da categorie sociali, è chiaro che incontriamo il patriarcato, perché il patriarcato è una categoria sociale. Ma nello stesso tempo, dove entra l'alterità? Dio parla il linguaggio umano, per cui entra in comunicazione con noi attraverso un linguaggio, una lingua particolare, l'ebraico, l'aramaico, il greco, una lingua particolare. L'agire di Dio poi è un agire dove il particolare gioca un ruolo molto importante. Il Dio biblico è un Dio che si muove all'interno di scelte particolari, che sono sempre scelte parziali. Se voi pensate, Dio per benedire tutte le genti chiama un popolo, e uno solo, Israele, con una vocazione particolare che è quella di essere luce per le genti. Le genti attraverso di te saranno benedette. Dio entra in una storia, forse lo capiamo meglio, Dio entra in una storia con un progetto di salvezza universale attraverso una esperienza di umanità, Gesù di Nazaret. Un'esperienza parziale, contestualizzata in un contesto particolare, nella Galilea, parziale perché sessuata anche, è un maschio, parziale perché ha vissuto un'esperienza parziale della vita, non ha vissuto tutte le esperienze. Allora, c'è questo strano rapporto del Dio biblico di alterità e vicinanza, ma dove la parzialità è un dato importante, è un dato che può diventare anche, anzi direi di più, è un dato necessario per poter aprirsi all'universale. Noi lo sappiamo anche dal punto di vista proprio antropologico. Noi, per imparare ad amare, abbiamo bisogno di innamorarci di una persona, di un uomo, di una donna. E non amiamo tutti gli uomini, tutte le donne, ma attraverso quell'esperienza particolare e parziale noi arriviamo ad intuire l'amore. Noi diventiamo genitori a chi è data la possibilità e il dono di avere dei figli, e attraverso quell'esperienza particolare non diventiamo genitori del mondo, ma attraverso quell'esperienza di maternità, di paternità, noi impariamo una cura verso l'altro, materna e paterna, che passa attraverso un'esperienza parziale. Voglio dire che l'esperienza umana passa sempre attraverso esperienze parziali. Noi impariamo a dire il mondo attraverso la nostra lingua madre. È una lingua, ha dei limiti, non dice tutto. Quando ci troviamo a dover tradurre quella lingua, ci troviamo di fronte a volte a cose che la nostra lingua dice meglio rispetto all'inglese, ma anche rispetto a termini che troviamo in un'altra lingua che non possiamo riassumere, non possiamo dire in quella forma sintetica nella nostra lingua. Eppure guai se ognuna e ognuno di noi non fosse abitato da una lingua materna, una lingua parziale con cui inizia a dire il mondo, che poi la può aprire anche a far diventare poliglotta. Provate a cogliere questo aspetto. Ecco, il Dio biblico nella scrittura agisce così. Da una parte ci viene detto che è altro da come ce lo immaginiamo, non possiamo catturarlo in un'immagine, non possiamo catturarlo in un nome, ma dall'altra parte è anche un Dio che per comunicare con noi entra in una storia parziale, una storia segnata da delle categorie. E il patriarcato nella scrittura c'è, è presente. È presente perché Dio entra in una storia umana segnata da categorie sociali dove addirittura all'interno delle relazioni affettive il potere è entrato. La Bibbia ci racconterà che questo potere nelle relazioni affettive è entrato attraverso una caduta, una deformazione del progetto originario di Dio, nei miti di creazione, la conseguenza dell'aver voluto mangiare il frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male ha causato anche questo demone. Il patriarcato è entrato nelle relazioni personali. Con le parole di Dio, che cosa è fatto? Ad Eva, il tuo desiderio si volge verso di lui e ora lui ti domina. Così la scrittura racconta il patriarcato come conseguenza di uno sguardo deformato sulla realtà. Uno sguardo di sospetto, di sfiducia verso Dio, un voler avere tutto sotto controllo attraverso il mito di creazione, quel mito che tanto ha fatto discutere, ha segnato le relazioni tra i sessi, le relazioni delle donne all'interno della Chiesa, un mito che mette in scena però in maniera molto coraggiosa, in un contesto patriarcale, il fatto che il patriarcato non era nel progetto originario di Dio, non era nel sogno di Dio, ma è stata quella deformazione al progetto originario che ha avuto inizio quando qualcosa di strisciante si è insinuato nella coppia e il giardino è stato completamente deformato dal desiderio di possedere quell'unico albero, l'albero del bene e del male. Questa presunzione di poter afferrare il bene e il male, ovvero di poter controllare tutto, ha portato al controllo prima di tutto all'interno della coppia da parte di uno dei due. Allora la scrittura da una parte racconta il patriarcato, lo descrive, parla molto tranquillamente di uomini che hanno più donne, di donne che vengono date in sposa senza poter esprimere il loro consenso, ma è sicuramente ci presenta uno stato sociale dove gli uomini comandano e le donne hanno meno potere. Ma nello stesso tempo la Bibbia è parola di Dio, entra in un linguaggio umano, ci parla con categorie che noi conosciamo, non si limita a descrivere questa realtà la questiona, la mette in discussione, la interroga, la interpella dall'interno, entra nel patriarcato, racconta il patriarcato e nel raccontare il patriarcato lo interpella. È proprio come per quanto riguarda la violenza, la stessa dinamica. La scrittura è un libro che racconta la vita e non racconta Dio al di fuori della vita. La vita è fatta anche di violenza. La scrittura sceglie coraggiosamente di narrare la violenza. e la narra non tanto per fare una cronaca, ma la narra per questionarla, per interpellarla, mettendo anche in scena degli interrogativi all'interno di questa violenza. Noi troviamo storie violente, e molte di queste hanno anche per protagoniste le donne che giocano spesso ruoli di vittima, ma non solo, ci sono anche le cattivissime, donne che quando raggiungono il potere diventano peggiori degli uomini, perché qui non c'è uno sguardo ideologico nei confronti del genere maschile o del genere femminile. Ecco, la scrittura racconta la violenza, ma non si limita a raccontarla, la interpella. La scrittura non accetta quello che a noi accade, che invece sono i meccanismi di rimozione. Noi tendiamo a voler presentare una realtà che è una realtà ideale, utopica, nel senso che non ha luogo, è astratta, ma che non corrisponde alla realtà. E così rischiamo di trasformare la fede in qualcosa che non ha davvero a che vedere con la vita. Lo diciamo spesso, che quando noi entriamo in chiesa ci dimentichiamo di una delle cose costitutive della nostra persona, che sono il corpo. Il corpo lo lasciamo fuori, parliamo di cose spirituali, la storia fatichiamo a farla entrare nella fede. La chiesa sembra essere un luogo separato dal mondo. Ecco, la scrittura non fa questa operazione, la scrittura non prende queste scorciatoie, non ci permette questi meccanismi di rimozione. La scrittura racconta il patriarcato, la scrittura però interroga fortemente il patriarcato dall'interno. Questa è una cosa importante, lo mette in scena e ci fa vedere quali possono essere i meccanismi che possono mettere in discussione il patriarcato. Io vi faccio due esempi. Nel primo libro di Samuele troviamo, il primo libro di Samuele si apre con la narrazione di una donna, Anna. Anna vive in un contesto patriarcale. Anna è sposata a Elcana. In un contesto patriarcale come quello, due cose per le donne sono importanti. La prima è avere un figlio per assicurare la successione, per aprire al futuro, e se questo non avviene entra in scena una seconda moglie. Allora, noi ci troviamo in questo contesto patriarcale dove Anna probabilmente è la prima moglie, ma c'è una seconda moglie, Pennina, perché Anna è sterile. Allora Elcana è il patriarca ed è sposato ad Anna ed è sposato a Pennina. Da Pennina ha avuto dei figli, ma Elcana non ha ripudiato Anna, perché Elcana ama Anna. Ora c'è questo pellegrinaggio rituale al tempio, e nel momento in cui si arriva al tempio si svolgono i sacrifici, ecco che il padre, il pater familias, prende la carne sacrificata a Dio, bollita, e la distribuisce al clan, e la distribuisce alle donne, che poi si preoccuperanno di dare da mangiare ai piccoli, in base alla grandezza della famiglia. E siccome Pennina ha dei figli, riceverà carne per lei e per i figli. Anna è da sola. Anna, il testo ci dice che non vuole mangiare, piange perché vuole un figlio che non può avere. E Cana le dà la doppia razione di carne. In un contesto pubblico, il testo non spiega perché, ma lo si intuisce, Anna riceve doppia razione di carne perché la sua sterilità, in quel contesto sociale dove la sterilità è una vergogna, non sia esposta. C'è questo pudore di Elcana di voler proteggere la donna che ama. Ma Anna non mangia e Anna continua a piangere. E allora Elcana le parla. Anna, Anna, perché piangi? Mangia, ti prego. Non valgo io per te più di 10 figli? in un contesto patriarcale, in un contesto dove una donna non è, se è sterile, e la sterilità è davvero vista come una maledizione, e il cane all'interno di un contesto strutturalmente patriarcale dice parole di libertà, parole d'amore. La struttura non cambia, voglio dire, la struttura è quella. Non possiamo evitare che quella struttura venga capovolta socialmente, ma all'interno di quella struttura è accaduto qualcosa. È come se l'amore tra il cane e Anna fosse più forte del patriarcato e riesce a costruire delle zone franche che permettono un'umanizzazione della relazione, dove tutto intorno al patriarcato, mentre il cane consola Anna, parla al cuore di Anna, si sperimenta una relazione di libertà. E forse capiamo perché nel cantico si dice che l'amore è forte come la morte, o più forte della morte l'amore. La stessa scena noi l'abbiamo in una coppia dove invece c'è l'amore, c'è lo stesso triangolo, c'è Giacobbe innamoratissimo di Rachele, lavora per Rachele, 7 anni gli paiono come 7 giorni, talmente forte l'amore per Rachele. Poi c'è Lia, la sorella che è stata data in sposa all'ingannatore con l'inganno. È un rapporto difficile questa triangolazione, un rapporto patriarcale, perché Giacobbe è il patriarca, ha queste due mogli, due sorelle che si litigano l'amore di quest'uomo, se lo contendono, ma è chiaro che quest'uomo è innamorato di Rachele. La struttura è patriarcale, l'amore di Giacobbe per Rachele potrebbe creare una zona franca in questo patriarcato. E invece qualcosa accade. Quando Rachele non ha un figlio, si lamenta con suo marito: dammi un figlio altrimenti io muoio. E la risposta di Giacobbe è stizzita: sono forse io Dio da poterti aprire il ventre? Stessa scena, stessa struttura patriarcale. In una le parole nella coppia sono parole di tenerezza, il cane e Anna, parole che consolano, parole che aprono la vita, di lì a poco Anna avrà un figlio, parole che generano futuro, in un'altra invece sono parole di oppressione. Il patriarcato ha contaminato le relazioni e nemmeno l'innamoramento così forte di Giacobbe per Rachele è riuscito a preservare quella relazione, ormai contaminata dalle richieste standard del patriarcato. Una donna ha uno status sociale soltanto se partorisce e via di seguito. Ecco, un'altra strategia con cui la scrittura affronta il patriarcato dall'interno senza negarlo, è un libro che nasce in un contesto patriarcale, che mette in scena un Dio che parla all'interno di un mondo che è sostanzialmente segnato dal dominio degli uomini sulle donne, eppure in questo libro plurale, dove Dio parla tanti linguaggi, dove ci vengono offerti tanti sguardi su Dio in una tensione tra loro, troviamo anche dei libri dedicati a delle donne. E questa non è una cosa da poco, che noi apriamo la Bibbia e troviamo un libro che è dedicato a Ruth e che ha come protagoniste due donne che agiscono, che sperimentano rapporti di solidarietà tali da cambiare addirittura il destino di due popoli. I Moabiti, che nonostante la maledizione originaria, perché non hanno offerto pane, entrano nell'alleanza tramite Ruth, e gli ebrei, perché proprio attraverso la relazione di aiuto da queste due donne che nascerà l'antenato, il nonno di Davide, il Messia, l'unto di Dio, oppure, per dirla con il linguaggio cristiano, l'antenato di nostro Signore Gesù Cristo, nella genealogia di Matteo viene ricordata Ruth e il figlio che Ruth ha avuto da Boaz, Obed. Altri libri, Esther, è un libro che ha come protagonista una donna che si trova all'interno di una struttura patriarcale da ogni parte, sia perché è segregata all'interno della realtà persiana, sia perché il mondo che viene messo in scena è un mondo patriarcale, un mondo dove c'è il dominio della Persia, ma non per questo Israele in esilio e oppresso cessa di essere patriarcale nel suo stile di vita. Eppure è un libro dedicato ad Esther, ed è tramite Esther che le sorti di un intero popolo vengono cambiate attraverso la sua astuzia, la sua capacità all'interno di questo patriarcato di sapersi muovere per creare situazioni di salvezza. Ma forse il caso più eclatante è il Cantico dei Cantici. Il Cantico dei Cantici è quel libro dove i ruoli sociali di genere, e qui dobbiamo capirci perché si parla molto di teoria di gender, per cui io ne parlo con la scrittura. I ruoli sociali di genere, ovvero qui non si discute la sessuazione uomo-donna, ma si discute il fatto che alla donna vengono associati dei comportamenti sociali. La dolcezza, l'accoglienza, alcuni attributi che socialmente vengono attribuiti culturalmente alle donne. Le donne sono discrete, sono dolci, gli uomini sono forti. Ecco, generalmente nel patriarcato questi sono i ruoli, anche se poi vengono messe in scena donne molto forti all'interno del mondo di Dio. Ecco, il Cantico dei Cantici che cosa fa? Ci presenta una situazione patriarcale dove si gioca una storia d'amore all'interno di un mondo patriarcale. C'è una ragazza che è protetta dai suoi fratelli, è custodita, una ragazza che trasgredisce gli ordini dei fratelli, che si sottrae al controllo dei suoi fratelli e vive la sua storia d'amore. Ma quello che è interessante qui è che all'interno di questo cantico che mette in scena, che dà voce all'amore, la ragazza gioca ruoli che dal punto di vista sociale noi attribuiamo agli uomini. Voglio dire che entriamo in questo libro, un cantico d'amore di un uomo e di una donna, e che cosa troviamo? Troviamo una ragazza molto intraprendente, una ragazza che corteggia il suo amato, una ragazza che non è per niente reticente nel fare le sue proposte amorose. E dall'altra parte troviamo invece un ragazzo che gioca ruoli sociali femminili. Voglio dire, la ragazza è cacciatrice, per capirci con il linguaggio di mia nonna, e il ragazzo fa la preda. La ragazza parla, esplicita le sue richieste. Beh, ragazzo, dimmi, se ti voglio venire a cercare, dove devo andare a trovarti? Dimmi dove ti trovo. E il ragazzo fa il vago, il reticente. Segui le tracce, vediamo un po' se mi trovi, le tracce delle pecore. Il Cantico dei Cantici mette in scena una storia d'amore dove l'amore è in grado di superare il patriarcato, non solo perché c'è l'innamoramento, per cui sa dire parole d'amore come quelle che abbiamo sentito nella storia di Elcana ed Anna, ma sa anche mettere sotto sopra i ruoli sociali, i ruoli che il patriarcato generalmente attribuisce o alla donna o all'uomo. Ecco, se voi entrate in questo bellissimo racconto erotico, che poi vuole anche alludere al rapporto con Dio, vuole anche alludere a questa fede in ricerca, questa fede amorosa, questa fede che desidera l'incontro, voi entrate in una storia dove vedete in scena, nello sfondo, il patriarcato, perché c'è, non è limitato, non è totalmente eliminato, ma all'interno di questo patriarcato accadono alcune cose che creano degli spazi di libertà, io non dico solo per la donna, ma anche per l'uomo. E allora lì la constatazione, diciamo così, che Dio ha fatto ad Eva, il tuo desiderio si volge verso di lui e lui ti domina, sembra totalmente eliminata. E non a caso voi trovate continuamente un ritornello che dice: il mio amico è mio e verso di me va il desiderio, ma non mi domina, io sono del mio amico e il mio amico è mio. C'è proprio la reciprocità messa in scena in questo contesto amoroso. Ecco, vi ho fatto entrare nella scrittura attraverso questa categoria del patriarcato che tocca le donne per farvi vedere anche dal punto di vista proprio ermeneutico come lavora la scrittura con un principio di realtà che non nega le difficoltà della realtà, ma all'interno di quel principio di realtà aprendo degli squarci di libertà. E allora il protestantesimo, che ha riscoperto l'alterità di Dio, per cui un'attenzione a dire Dio anche attraverso linguaggi diversi, e chi ha riscoperto le scritture, ci ha restituito tutto questo, ma ci ha restituito anche una presenza che avevamo dimenticato nelle scritture, che spesso dimentichiamo nelle chiese, che è una presenza femminile, che è una presenza che nel protestantesimo, ecco dove andava a parare la magia con tutta questa lunga, si colloca all'interno di una struttura perfettamente patriarcale. Voglio dire, è chiaro che il protestantesimo oggi ha portato dei frutti che sono maturati soltanto nello scorso secolo, che sono il ministero delle donne. Prima di tutto nelle chiese le donne che sono pastori, le donne che hanno che sono responsabili delle comunità, le donne che celebrano l'Eucaristia, le donne che ufficiano nelle funzioni che nell'immaginario antico e all'interno di alcune tradizioni cristiane attribuiamo a ruoli maschili. È chiaro che questo è avvenuto, è una realtà. Le donne all'interno del mondo della riforma sono riconosciute come pastori, come gli uomini, ma dall'altra parte questo è un frutto tardivo, perché la riforma iniziata con Lutero si muove all'interno di una struttura patriarcale che non mette in discussione di fatto. Voglio dire, una delle cose più difficili e su cui ancora si è davvero analfabeti è costruire una storia del protagonismo delle donne nella riforma fatto di nomi, fatto di biografie. Voglio dire che è facile costruire una storia delle donne dove si analizza il ruolo delle donne nella famiglia, il ruolo delle donne nelle case pastorali. Un po' questo è un problema della storia delle donne. Gli studi sulle donne difficilmente sono stati studi che si sono concentrati su il singolo protagonismo femminile, ma sono stati studi che hanno lavorato molto più su grandi aspetti del mondo sociale: la maternità, il matrimonio, la sessualità, il corpo. La stessa cosa è avvenuto con la storia della riforma. Noi fatichiamo a dare volto e nome a donne protagoniste della riforma, proprio all'interno di una tradizione che ha permesso agli uomini e alle donne di leggere la Bibbia, per cui ha fatto un lavoro di alfabetizzazione, un lavoro che necessariamente ha portato una certa cultura. Quello che sto provando a dire è che il tutto è stato fatto, e qui la parabola è molto simile alla parabola biblica, all'interno di una cultura patriarcale che di fatto non è stata messa in discussione, che ha agito. Voglio dire, noi possiamo prendiamo la vicenda tipica, Lutero e Caterina Pompora. A parte il problema storico sul fatto che su Caterina non abbiamo scritti, e questo è già un problema, abbiamo la narrazione della storia affettiva di Lutero e Caterina fatta attraverso le lettere di Lutero, fatta attraverso quello che Lutero ci racconta, fatta attraverso i discorsi a tavola di Lutero, ma la relazione all'interno della coppia, all'interno della riforma, è una relazione fortemente patriarcale. Poi certo che nell'ambito patriarcale noi scopriamo zone franche di libertà e di tenerezza. Voglio dire che la storia tra Lutero e Caterina è stata una storia d'amore. È stata, il matrimonio probabilmente non sarà partito sulle basi di un grande innamoramento. Addirittura Caterina era innamorata di un altro che alla fine non l'ha voluta sposare, e questa 25enne, trovandosi alle strette, ha detto a Lutero: piuttosto che sposare quello, sposo te. E da quel momento Lutero è entrato nel pensiero, lui 16 anni più grande di lei: effettivamente potrei sposarmi, dopo tutto potrei sposarmi. E Lutero, che era così ostile a... ricordiamoci che era un monaco, insomma, Lutero era un monaco agostiniano, è rimasto monaco fino al momento in cui si è sposato, ed era strutturalmente un monaco nel suo modo di essere. Lutero è entrato in questa relazione anche con una certa titubanza, e non necessariamente per motivi proprio legati all'innamoramento. Aveva la preoccupazione di dare un concreto riscontro a quanto predicava: l'insensatezza dei monasteri, il fatto che la vita celibe non era superiore alla vita di coloro che si sposavano. Voleva forse anche irritare ancor di più il Papa, per cui fare un gesto che avrebbe creato irritazione. Quello che però si intuisce nel corso del cammino di questa coppia, che all'interno di questa coppia inizia a instaurarsi una relazione di amore molto simile a quello che oggi chiamiamo un innamoramento. Lutero parla con molta stima di Caterina e le riconosce anche una certa autorevolezza. Parla di Caterina chiamandola mio signore. Quando scrive a Caterina, scrive riferendosi a lei come dottore Caterina, usa questi termini maschili che dicono anche che ci fanno intuire anche il carattere forte che Caterina aveva. Ma Caterina occupa all'interno della riforma un ruolo sociale sicuramente subalterno. Si occupa sostanzialmente della casa. Certo, non è una piccola casa, perché voi immaginate che prendono in gestione una casa di 40 camere e iniziano a accogliere giovani studenti a convitto. Questo perché per Caterina è l'unico mezzo di sussistenza. Lutero è un uomo dalle grandi idee, ma è incapace di gestire il denaro. È proprio incapace. Caterina prende in mano tutta la situazione finanziaria, e da questa scelta nascono anche questi bellissimi discorsi a tavola, dove Caterina è a tavola, non è una cosa da poco in un contesto patriarcale, mangia e partecipa alle discussioni con grande piglio, da quello che ci riporta Lutero. Questa casa di 40 camere accoglie anche suore che sono scappate da altri monasteri, e accoglie fuggiaschi che vengono via dal mondo cattolico e ricercano la protezione in a Wittenberg, in un contesto luterano, quando le idee del luteranesimo sono ormai entrate in molti monasteri femminili. Proprio grazie alle suore. Ma mentre nel cattolicesimo la storiografia si è concentrata molto sulle biografie delle suore, delle mistiche, di quelle donne che pur all'interno di questa struttura protetta hanno sperimentato spazi di libertà, o forse proprio all'interno di questa struttura protetta, nel protestantesimo su questo c'è ancora un vuoto, c'è ancora una storiografia molto labile. Ci sono piccoli medaglioni, sicuramente su Caterina Pombora c'è molto, ma non c'è molto di più. È ancora tutto un lavoro da fare. Perché? Perché la riforma, che pur ha portato delle istanze che hanno portato libertà alle donne come frutto tardivo, o come frutto immediato, per esempio questa cosa di insegnare alle donne a leggere e a scrivere, perché il libro è stato messo nelle mani di ogni credente, sicuramente ha portato ad acquisire degli strumenti per leggere la vita che hanno strappato le donne a raggiri e facili sottomissioni. È chiaro che quando le donne acquistano capacità di poter leggere, avviene un po' quello che è avvenuto negli Stati Uniti d'America, quando gli schiavi imparano a leggere e a leggere e scrivere proprio attraverso le scritture. Voglio dire che c'è questo paradosso, e noi non dobbiamo raccontarci una storia idealizzata. La storia delle donne all'interno della riforma è una storia dove le donne hanno sicuramente un grande protagonismo, ma non c'è una memoria narrativa che ci porti ad identificare figure forti, se non alcune donne che occupavano ruoli sociali molto alti, che si sono fatte protettrici con il loro potere politico di riformatori. Capite un po' quello che sta avvenendo? E allora com'è accaduto che all'interno delle chiese della riforma poi le donne hanno trovato questo protagonismo? Un protagonismo che non possiamo nemmeno narrare dal punto di vista storiografico, sto dicendo questo, un protagonismo che possiamo rinarrare riscoprendo le genealogie bibliche. E certo la Bibbia è un grande aiuto, perché è vero che è un libro dove Dio parla all'interno di un contesto patriarcale, ma è un libro dove all'interno di questo mondo patriarcale Dio parla a uomini e donne, le donne hanno un grande protagonismo. Addirittura le donne diventano archetipi che permettono al linguaggio profetico di dire la relazione tra Dio e Israele attraverso il corpo delle donne. Pensate tutte le metafore sponsali che nascono all'interno del mondo profetico per dire la relazione tra Dio e Israele come relazione sponsale. O pensate anche allo stesso corpo delle donne, raccontato come corpo sterile, che diventa esperienza individuale di un'oppressione particolare, ma che diventa anche archetipo collettivo con cui attraverso questo corpo sterile della donna si dice la sterilità di un popolo, si dice il non futuro di un popolo. Voglio dire che la categoria della sterilità, che è così presente nelle scritture, è una categoria sociale, è una categoria che fotografa il ruolo delle donne all'interno del patriarcato in questo ordine, e l'oppressione delle donne quando non sono in grado di aprirsi alla generatività, ma serve come paradigma teologico di pensatori e pensatrici biblici per dire la sterilità di un popolo, il futuro che viene meno di un popolo. Serve raccontare di nascite straordinarie, serve per liberare una donna dalla sua oppressione, dalla sua sterilità, ma serve soprattutto attraverso quella donna per ricordare che Dio agisce in una storia sterile, in una storia chiusa, e di nuovo è Lui che riapre la vita, è il sola grazia. Non dobbiamo riaprirci il futuro da soli, non siamo capaci, è Dio stesso che riapre, un altro modo per dire la grazia. E poi certo, c'è tutto il Nuovo Testamento, dove incontriamo questo Dio incarnato, questo Dio che vive un'esperienza parziale, ma che nella sua parzialità ci mostra il sogno di Dio mettendo in scena una parabola che vede per protagonisti uomini e donne. E mette in scena questo laboratorio di libertà che verrà chiamato Chiesa, dove gli uomini e le donne condividono insieme una ministerialità fatta di doni. E qui penso per eccellenza a Paolo. noi entriamo in questa narrazione e immediatamente notiamo che le donne hanno un grande protagonismo, che le donne assumono ruoli dove non soltanto sono liberate, ma che innescano meccanismi di liberazione, che pongono domande che portano a cambiamenti. E io penso alla Sirofenicia, una donna pagana che riceve una grande liberazione perché riceve la possibilità di vedere sua figlia guarita da una malattia mortale, ma nello stesso tempo permette di vedere le cose da un altro punto di vista, il suo punto di vista, e aiuta addirittura il Signore Gesù di Nazareth a comprendere che la sua vocazione non può limitarsi soltanto alle pecore sperdute della casa di Israele, ma è chiamata a portare la misericordia di Dio oltre i confini di Israele. Allora noi ci troviamo di fronte a questa esperienza, dove da una parte la riforma ci ha restituito la scrittura, e nel restituirci la scrittura letta, interpretata, studiata, proclamata da uomini e donne, ci ha restituito questa complessità del mondo biblico, e in questa complessità quell'alterità che è rimasta nel contesto patriarcale troppo schiacciata, o perché ridotta a un neutro che è maschile, un linguaggio neutro che in realtà è soltanto un falso neutro, perché dietro al linguaggio neutro c'è sempre il maschio. Quando noi diciamo Dio è neutro, ma che immagine abbiamo di Dio? Capite che cosa voglio dire? Quando noi diciamo uomo, capiamo che è neutro, che si riferisce a uomini e donne, però di fatto quel neutro è maschile. Allora il patriarcato ha nascosto quell'alterità attraverso questo neutro, ma l'ha nascosta anche narrando quell'alterità solo dal suo punto di vista, un punto di vista maschile, per cui le donne sono state raccontate secondo dei valori, aspettative sociali che sono poi di fatto, noi li abbiamo chiamati come universali, e qui sì, tutto il problema dell'educazione di genere adesso su cui si discute, ma in realtà non erano universali per nulla, appunto che la Bibbia li questiona. Cantico dei Cantici è un grande esempio. E noi siamo qui a interpellarci come aiutarci a recuperare quell'alterità che di nuovo moltiplica gli sguardi su Dio, per far sì che Dio non venga ridotto a una definizione, a un catechismo, e dall'altra parte permetta anche di mettere in circolo quei doni che ci sono all'interno della Chiesa, che sono i doni dati alle donne. Noi siamo in questa stagione consapevoli che la riforma inizia a dare i suoi frutti su questo aspetto, seppure tardivi, e li fa proprio a partire dall'alterità di Dio, dalle scritture, ma da altri due punti importanti: il sacerdozio di tutti i credenti. Quando la riforma scopre che ogni persona è chiamata ad essere sacerdote, e non parlo soltanto della vocazione battesimale, ma parlo di o meglio, prendendo in seria considerazione la vocazione battesimale data a uomini e donne, la riforma riscopre che il sacerdozio è di tutti e che non può esistere questa distinzione tra laici e presbiteri, che è una categoria che la riforma mette in discussione. Tutti siamo sacerdoti, o meglio, tutti siamo laici. Lutero era un monaco, ma vive una vita laica nel momento in cui entra all'interno di una famiglia. Una vita laica significa anche una vita non protetta da delle strutture che ti garantiscono. Allora, il sacerdozio di tutti i credenti, e infine un altro elemento, io ho visto che Enzo Bianchi vi parlerà di questo, ma questo ha avuto un grande contributo per il protagonismo delle donne nella Chiesa, la Chiesa ha sempre bisogno di riformarsi, ha sempre bisogno di correggere tutte quelle distorsioni che la portano a rendere troppo fisso il proprio sguardo. La Chiesa ha continuamente bisogno di riconoscere di non essere perfetta, di avere bisogno di convertirsi all'Evangelo. E allora in questo processo di continuo rimando a riascoltare la parola evangelica che abbiamo ricevuto, le chiese iniziano a scoprire che uno degli aspetti che è stato negato all'interno delle proprie realtà è proprio il protagonismo femminile, che invece è molto presente nei Vangeli. Su questo ad interrogarsi e su questo a riformarsi. All'interno della realtà protestante le donne in Italia almeno non sono tanti anni che sono pastore, nel mondo battista sono 50 anni, nel mondo valdese arriviamo ai 70 anni, è un periodo brevissimo se ci pensate, estremamente breve rispetto a una storia della Chiesa un po' più lunga. E questo è avvenuto proprio perché c'è stato un momento in cui le chiese si sono messe in ascolto della parola di Dio e hanno riconosciuto che niente impediva che le donne, come gli uomini se chiamati da Dio, potessero esercitare il loro ministero. Allora, alterità di Dio, centralità della scrittura, sacerdozio di tutti i credenti e una chiesa che ha sempre bisogno di riformarsi sono quegli ingredienti che stanno permettendo una rivalutazione del ruolo delle donne nelle chiese. Grazie. I giorni della Chiesa. Lidia Maggi nel suo intervento al Centro Universitario di Padova dello scorso 21 di febbraio nell'ambito del ciclo di incontri del martedì dedicati ai 500 anni della Riforma Luterana 1517-2017. Riforma e ruolo della donna, questo è stato il titolo del suo intervento, ma proseguiremo ancora nelle prossime settimane con altre voci completando appunto questo interessante ciclo di incontri. Grazie allora al Centro Universitario che ha condiviso con noi anche questo materiale. Grazie a voi per l'ascolto. È di Daici in regia, da Mirko Cavallin. Buon proseguimento con Blu Radio Veneto. I giorni della Chiesa. Eventi e incontri della Diocesi di Padova.